Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Forse ucciso il capo dell'ISIS al-Baghdadi in un raid russo su Raqqa. Mosca sta verificando le informazioni, non possiamo confermare, dicono gli Stati Uniti. Lo sciopero dei trasporti, disagi in molte città italiane, chiuse le metropolitane a Roma, alcuni voli cancellati, a Milano circolano 3 linee della metro, disagi contenuti a Napoli. Ius soli dopo lo scontro, anche fisico in aula, tutto rimandato dopo il ballottaggio, Renzi attacca, assordante silenzio dei cattolici di sinistra, sono pro 5 Stelle. Calcio domina la scena di Donnarumma di non firmare col Milan, insulti sui social dai tifosi milanisti. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, come sempre il numero per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. C'è anche la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo in diretta, www.facebook.com/effettogiorno. È venerdì e quindi anche oggi, come ogni venerdì e ogni lunedì, torneremo sulle tracce di Igor, il russo, alias Norbert Fehr, in realtà il criminale serbo per il quale sono stati dispiegati molti uomini e mezzi e che ancora non si riesce a trovare. È venerdì e quindi c'è sciopero e anche di questo parleremo più avanti nel corso della trasmissione. In apertura però le notizie che arrivano dall'estero e che sono importanti, ovviamente se verranno confermate: Abu Bakr al-Baghdadi, il capo dell'ISIS, sarebbe stato ucciso in un raid. Sentiamo. Ibrahim al-Samarai, iracheno di 46 anni, questa la vera identità del califfo, sarebbe stato ucciso in un raid dell'aviazione militare russa avvenuto nella periferia sud di Raqqa il 28 maggio scorso. Nel sobborgo, ha spiegato il Ministero della Difesa, quel giorno era in corso un incontro tra capi dell'ISIS e tra loro probabilmente al-Baghdadi, arrivato a fine maggio per preparare le difese della capitale siriana dell'ISIS in vista dell'assalto dei guerriglieri curdi appoggiati dagli Stati Uniti. Da qui la decisione di compiere il raid, in cui avrebbe perso la vita anche il leader supremo dello Stato Islamico, oltre che una trentina di capi militari ed almeno 300 miliziani. Il condizionale è d'obbligo e verifiche sono in corso, anche perché non è la prima volta che al-Baghdadi è stato dato per morto. La coalizione internazionale anti-ISIS per il momento dice di non poter confermare la notizia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In diretta con noi per un'analisi abbiamo Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Innanzitutto buongiorno Alberto, e la seconda cosa che ti vogliamo chiedere è che credibilità possiamo dare a queste notizie a tuo giudizio. Ma la conferma dell'uccisione di al-Baghdadi deve ancora arrivare, dovrebbe arrivare dallo stesso ISIS. Di solito usa l'agenzia MAC per confermare le notizie che riguardano il califfato. La stessa notizia data dai russi è anche un po' ambigua, perché il raid si è svolto il 28 maggio, cioè praticamente 18 giorni fa, 3 settimane fa. Loro probabilmente pensano che lì ci fossero davvero i vertici dell'ISIS con al-Baghdadi, ma forse non hanno ancora le prove materiali della sua morte. Il fatto che la coalizione americana non abbia ancora confermato solleva qualche dubbio, però bisogna restare in attesa. Una cosa è certa, per Putin sarebbe un colpo strategico doppio, perché nel 30 settembre 2015 è entrato in guerra in Siria ed è riuscito a mantenere in sella insieme all'Iran e agli Hezbollah Bashar Assad. Poi alla fine accoppa anche al-Baghdadi, il capo dell'ISIS, è chiaro che questa sarebbe una vittoria straordinaria per Mosca. Detto questo, la fine di al-Baghdadi non è la fine dell'ISIS, non è la fine della guerra in Siria. L'ISIS certamente ha perso gran parte del suo territorio e forse anche della sua capacità di attrazione e di fascinazione tra i jihadisti, però continuerà sicuramente come organizzazione di guerriglia e terroristica. E in secondo luogo la guerra di Siria non finisce, perché non solo ci sarà ancora guerriglia e terrorismo, ma perché continua la seconda battaglia, quella vera, quella strategica, che è quella che hanno aperto gli americani, i sauditi anche con l'appoggio israeliano contro l'influenza iraniana nella regione. E ti ringrazio, grazie ad Alberto Negri per questa analisi in diretta su quello che potrebbe rappresentare la morte di al-Baghdadi, sulla quale, come avete sentito, ancora conferme definitive non ce ne sono. Non so se siete in giro, se siete stati in giro questa mattina, se vi siete trovati incastrati nel traffico o avete provato a prendere un tram, un autobus, una metropolitana e non ci siete riusciti, oppure un treno o un aereo. Se volete scriveteci e raccontatecelo, perché oggi sciopero dei trasporti. La situazione più critica sembra essere, e spesso accade, quella di Roma. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, oggi giornata piuttosto nera per Roma, dove la mobilitazione è doppia. Da un lato c'è lo stop di 4 ore indetto dal SUL tra le 11 e le 15, dall'altro quello di 24 ore dei Cobas in corso dalle 8.30 fino alle 17 per riprendere poi alle 20. Chiuse in questo momento tutte le metro A, B e C, ma anche la linea ferroviaria Roma-Lido, la linea urbana Roma-Viterbo, attiva con riduzione di corse la Termini Centocelle, e anche ci sono per bus e tram riduzioni di corse, sospensioni di linea. Qui a Termini lunghissime code alle fermate dei taxi, tante persone sotto le pensiline in attesa di autobus che però non si vedono, alcuni turisti rassegnati invece si sono avviati a piedi verso le loro destinazioni, e si registrano anche forti disagi al traffico, rallentamenti in varie zone della capitale, soprattutto nel quadrante sud. È invece assicurato il collegamento tra Roma Termini aeroporto di Fiumicino con il Leonardo Express, circolano anche, l'abbiamo potuto constatare, regolarmente le frecce Trenitalia, mentre alcuni treni intercity, alcuni convogli regionali stanno subendo dei ritardi, alcuni potrebbero essere cancellati o limitati nel corso della giornata. E da Roma è tutto. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento da Roma. Sentiamo la situazione a Milano. Adriano Palazzolo, buongiorno. Buongiorno Simone e buongiorno agli ascoltatori. La situazione a Milano è completamente diversa, perché i disagi sono molto contenuti, almeno per quel che riguarda il trasporto urbano, dal momento che le linee della metropolitana hanno continuato e continuano a circolare regolarmente anche al di fuori della fascia di garanzia, ad esclusione però della linea M5, la Lilla, i cui treni risultano fermi. Ci sono invece poche riduzioni per quel che riguarda la circolazione dei mezzi di superficie. La situazione invece è diversa per il trasporto ferroviario regionale. Io mi trovo alla stazione di Cadorna, che è uno degli snodi nevralgici per i treni dei pendolari. I tabelloni che vedo qui davanti a me indicano che molti treni regionali sono stati soppressi sin dalla mattina e la circolazione prosegue a singhiozzo. Sono stati segnalati sin dalla mattina ritardi e criticità lungo numerose direttrici lombarde e piemontesi, e sicuramente saranno tante le persone che approfitteranno della seconda fascia di garanzia della giornata prevista per stasera dalle 18 alle 21. E da Milano al momento è tutto. E grazie Adriano Palazzolo. Per quanto riguarda invece Napoli, l'aggiornamento ve lo diamo da qua, dalla redazione. A quanto pare disagi contenuti, la protesta non coinvolge la NM che gestisce bus, funicolari e la linea 1 del metrò, né l'EAV da cui dipendono le ferrovie Cumana, Circumvesuviana e Circumflegrea. Sciopero in corso invece sulla linea 2 del metrò. Il gruppo FS, ormai lo sapete, ha confermato il regolare funzionamento delle frecce rosse. A Torino ci scrive Italo via SMS: la metro questa mattina funzionava. E questo è il quadro per il momento dello sciopero. Più avanti sentiremo un sindacalista e cercheremo di capire perché oggi si sia scioperato. Andiamo alla politica adesso. Dopo lo scontro di ieri, rallenta il percorso in aula della legge sullo Ius Soli, quella che consente a determinate condizioni ai figli di stranieri nati in Italia e cui genitori abbiano un permesso di soggiorno a tempo indeterminato o carta di soggiorno di ottenere la cittadinanza italiana. Di questo è tornato a parlare tra l'altro il segretario del PD Renzi. Il servizio. Non va giù a Matteo Renzi lo scontro sullo Ius Soli, la svolta a destra del Movimento 5 Stelle, la rissa nell'aula di Palazzo Madama. Il segretario PD parla di scena inqualificabile e attacca anche il mondo cattolico. Che cosa hanno da dire oggi quei tanti esponenti del mondo cattolico che qualche giorno fa non soltanto ci sottolineavano con grande entusiasmo la svolta francescana di Beppe Grillo, le grandi attrici o le cantanti o i grandi personaggi che si sono, i filosofi che hanno detto nel mondo della sinistra che erano delusi dal Partito Democratico. Nella bagarre scatenata dalla Lega ieri, la ministra Valeria Fedeli si fa male a un braccio cadendo da una ringhiera nell'aula di Palazzo Madama. Oggi interviene però anche il leader della Lega Matteo Salvini, per il quale non si capisce l'urgenza di un provvedimento che comunque divide. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, già pensa al referendum abrogativo. Nel frattempo il PD rimanda il voto a dopo le amministrative e pensa di mettere la fiducia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E Salvini ha parlato anche dei rapporti con il Movimento 5 Stelle, dice prima bisogna eleggere i sindaci che sono la parte più importante della politica, di tutto il resto della legge elettorale di Grillo parleremo dal 26 giugno in poi. Ovviamente aggiunge l'alleanza naturale, quella di centrodestra, ma è quella, va bene però a Grillo siete benvenuti se sostenete le nostre stesse idee come quelle sull'immigrazione, così Salvini. Veniamo a Londra, dove questa mattina tra l'altro c'è stato un nuovo allarme a Westminster per un'ipotesi di terrorismo che tale non era, nel senso che è stato fermato un uomo col coltello, ma appunto non si trattava di terrorismo, e dove l'attenzione però resta concentrata sull'incendio nel palazzo nel quale, come sapete, hanno perso la vita a quanto pare anche due italiani, al momento ufficialmente ancora dati per dispersi insieme ad altre 74 persone. Il punto di oggi con Giorgia Scaturro. Da Londra, Giorgia, buongiorno. Buongiorno Simone. Bene, in quest'ultima ora la regina Elisabetta si è recata sul luogo dell'incendio devastante, la Grenfell Tower, incontrando alcuni dei superstiti, il personale dei servizi di emergenza e molti dei volontari che stanno fornendo supporto. Questo dopo l'ennesima gaffe di ieri del primo ministro Theresa May, che è stata nell'aria senza però incontrare alcuno dei superstiti. La May più tardi andrà all'ospedale in visita ad alcuni dei 24 feriti, sui 74 iniziali con ancora 12 che sono ricoverati in condizioni critiche. In queste ore, come ricordavi, sono disperate le ricerche dei dispersi, tra cui figura ancora la giovane coppia di italiani. Tra chi è rimasto intrappolato nel grattacielo carbonizzato dei circa 500 residenti non ci saranno superstiti, dice la polizia, che spera che il numero dei morti non salga a tre cifre, mentre secondo la comunità locale il numero potrebbe passare i 100. Ricordiamo che ora sono 17 i morti accertati ufficialmente. Il primo nome emerso è quello di un ingegnere 23enne rifugiato dalla Siria. Intanto, tra rabbia della comunità ignorata al nord di Kensington, la polizia sta indagando sui pannelli di plastica con cui da poco era stato rivestito il palazzo, materiale che potrebbe essere stato infiammabile e che negli Stati Uniti è già vietato. Per il momento vi restituisco la linea. Grazie dunque a Giorgia Scaturro per questo aggiornamento e per il lavoro che ha fatto su questa vicenda in questi giorni. Siamo alle questioni che arrivano dagli Stati Uniti, quelle del Russiagate. Sentiamo. Jared Kushner è sotto indagine. Il procuratore speciale incaricato delle indagini su possibili ingerenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016, il cosiddetto Russiagate, Robert Mueller, ha messo sotto la lente d'ingrandimento le attività finanziarie e imprenditoriali del genero del presidente americano. Lo rivela il Washington Post, citando fonti governative informate della questione. Gli agenti dell'FBI e la Procura federale stanno anche esaminando le attività finanziarie di altri soci e persone vicine a Trump, incluso l'ex consigliere per la sicurezza Michael Flynn, l'ex presidente della campagna elettorale dell'attuale presidente americano Paul Manafort e Carter Page, che ha avuto un ruolo di consigliere in fase elettorale su questioni di politica estera. Il marito di Ivanka Trump era già finito nel mirino delle indagini per i suoi incontri con l'ambasciatore russo, in particolare per un colloquio tenuto a dicembre a Washington. Il nuovo filone delle indagini aumenta la pressione su Trump, a sua volta indagato per possibile intralcio alla giustizia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con una sentenza pubblicata ieri in serata, il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensione dei due provvedimenti con i quali il TAR, il 25 maggio scorso, lo ricorderete perché ne abbiamo parlato lungamente, aveva bocciato la nomina di 5 dei 20 direttori manager insediati dalla riforma Franceschini alla testa dei nuovi musei autonomi. Dunque, tornano in servizio, in attesa della sentenza definitiva prevista per il 26 ottobre, Paolo Giulierini del Museo Nazionale Archeologico di Napoli, Carmelo Malacrino del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Peter Asman, direttore del Palazzo Ducale di Mantova, Marta Scalini delle Gallerie Estensi di Modena e Eva degli Innocenti, direttrice del Marta di Taranto. L'ha intervistata Adriana Fracchia. Sono molto contenta di essere potuta ritornare al lavoro, di aver potuto riprendere il lavoro con tutto il personale del museo, con cui abbiamo raggiunto grandi risultati nel corso di questo anno e mezzo. E poi sono contenta di poter riprendere anche tutti i progetti che avevamo iniziato, soprattutto sono contenta della vicinanza della città, che mi ha veramente trasmesso la solidarietà, il sostegno, e soprattutto, ecco, la città ha fatto capire quanto questo museo oggi sia veramente un simbolo identitario per i cittadini di questa città così difficile, che in realtà si sta riunendo intorno al museo, alla cultura, come rinascita della realtà tarantina. Quindi sicuramente sono contenta, che perché avevamo trascorso queste 3 settimane un po' di bloccaggio, soprattutto dei progetti scientifici, e quindi abbiamo anche delle mostre imminenti che dobbiamo assicurare, quindi ci aspettano alcuni giorni di lavoro intenso per recuperare un po' il tempo perduto. Prima di andare al traffico, ci occupiamo della vicenda sulla quale il paese si interroga. Che fine farà Gigio Donnarumma? Giovanni Capuano, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Beh, che fine farà lo sa probabilmente soltanto il suo procuratore Mino Raiola, e oggi basta guardare i giornali spagnoli per capire che in cima a tutti c'è il Real Madrid. Oggi i due quotidiani sportivi madrileni, AS e Marca, hanno dedicato l'intera prima pagina a Gigio Donnarumma, e che così ha fatto il pieno, perché con le 3 italiane fanno 5 prime pagine intere occupate in tutta Europa, che per un 18enne non è male. Però poi bisognerà vedere cosa succede, perché il Milan ha scelto la linea dura. Ufficialmente Donnarumma non è in vendita, andrà in tribuna, arriverà a scadenza nel 2018, perderà probabilmente il mondiale. Ma queste sono le parole di oggi, che è il giorno dopo, il giorno delle recriminazioni, delle accuse, dei sospetti, dei veleni. Abbiamo davanti più di 2 mesi di calciomercato, e forse alla fine trionferà la Realpolitik e anche il Milan deciderà di monetizzare Donnarumma. Di sicuro quello di ieri è stato uno shock non completamente inatteso, perché da qualche giorno si era capito che volgeva al cattivo tempo il rapporto tra Fassone e Mino Raiola. Quello che ha sorpreso tanti e ha fatto letteralmente infuriare i tifosi del Milan è stata l'assenza totale di una trattativa. Si è capito che Donnarumma e il suo agente avevano deciso già da settimane, quando ancora in interviste parlavano di amore per la maglia, di voglia di restare. Probabilmente era già tutto deciso, e questa è una cosa, certo, che ha offeso. Certo, Giovanni, dargli del traditore già a 18 anni, mamma mia. Beh, però se tu per mesi racconti di essere legato a un ambiente e spieghi di vederti con quella maglia ancora per anni, poi bisogna anche capire la reazione dei tifosi. Sì. Oggi c'è un grande dibattito, che poi noi riprenderemo alle 14 in tutti i convocati, tra chi lo considera un traditore e chi considera ipocriti quelli che lo considerano un traditore. Dicono: chi di voi non andrebbe a lavorare da un datore di lavoro che ti offre di più? È un bel dibattito, anche è un bel in termini tema di risultati magari. La verità vera è che i tifosi si ostinano a ragionare al calcio, sul calcio, in una maniera antica che non esiste più. Noi abbiamo salutato quest'anno Francesco Totti, l'anno prossimo saluteremo Gianluigi Buffon, e poi probabilmente con l'epoca delle bandiere abbiamo chiuso definitivamente. Se ne è valsa la pena o no, Donnarumma ce lo dirà fra 15 anni. Bel dibattito comunque, che non riguarda in realtà solamente il mondo del calcio. Grazie intanto a Giovanni Capuano, che ritroviamo alle 14 in tutti i convocati. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico, poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Iniziamo parlando di sciopero, perché ci siamo chiesti e vogliamo capire perché oggi alcuni sindacati di base stiano scioperando, e lo chiederemo direttamente a loro. Parleremo di siccità, se non ve ne siete accorti sta piovendo pochissimo e ci sono parecchi problemi in molte regioni italiane. E poi sì, qualcuno ci dice la vicenda di Igor non se ne può più come di quella di Donnarumma, però ne parleremo, perché insomma, un minimo di aggiornamento ve lo vogliamo dare. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, e sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, oppure sulla pagina Facebook di Radio 24. Andate là e ci potete, se volete, vedere anche in video. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della vicenda di al-Baghdadi, perché forse sarebbe stato ucciso il capo dell'ISIS in un raid russo. Ci siamo occupati dello sciopero dei trasporti, sul quale torneremo tra un attimo, del dibattito sullo Ius Soli di Londra e del caso di Gigio Donnarumma, sul quale torneremo in tutti i convocati a partire dalle 14. Intanto voglio salutare, per il nostro giro per l'Italia, ci occupiamo di sciopero, quindi in realtà è un giro per l'Italia che ci porta in vari posti d'Italia, Guglielmo Musso, che è delegato nazionale del sindacato SICOBAS. Musso, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno ai radioascoltatori. Perché scioperate? Dunque, noi oggi è il 16 e c'è lo sciopero della logistica e dei trasporti promosso da SICOBAS e dall'altro sindacato che è stato con noi protagonista di questo straordinario movimento di lotte della logistica, che ha ottenuto risultati fantastici. e per il rinnovo contrattuale della logistica dei trasporti. Nella logistica dei trasporti ci sono la maggior parte dei lavoratori della categoria a cui non è applicato il contratto nazionale, non viene pagato il lavoro extra e le condizioni lavorative e di salute sono assolutamente al di sotto del minimo accettabile. Però abbiamo deciso di fare uno sciopero della logistica e dei trasporti merci oggi per scioperare lo stesso giorno dello sciopero dei lavoratori all'Italia, perché riteniamo lo sciopero dei lavoratori all'Italia, diciamo, un segnale importantissimo non solo per la categoria dei trasporti, ma per tutti i lavoratori italiani. Ma scusi, voi non rappresentate il trasporto pubblico? Anche rappresentiamo il trasporto pubblico in locale, misura molto locale, in misura solo in alcune città e in misura molto minore che il trasporto merci e la logistica. Però, diciamo, l'aver piazzato lo sciopero nella stessa giornata dello sciopero dell'Italia ha portato poi a cascata tutta una serie di sigle sindacali, di sindacati di base, a programmare lo sciopero nella stessa giornata di oggi. Se andate sul sito del Ministero dei Trasporti ci sono 3 pagine di convocazione di sciopero di varie categorie, del trasporto passeggeri, del trasporto merci, del pubblico e del privato, rotaia, treni, sì, aerei, eccetera, tutti che hanno fatto tutti, diciamo, centrato lo sciopero sulla giornata dello sciopero dell'Alitalia. La ringrazio, grazie Guglielmo Musso, delegato nazionale del sindacato Cobas, quindi sciopero anche, come avete sentito, della logistica e del trasporto, e non solamente del trasporto pubblico locale, e dei treni, appunto, in sciopero oggi. Facciamo una cosa, andiamo a Torino e andiamo a sentire che cosa succede sul fronte delle indagini per il dopo piazza, per dopo quello che è successo in piazza San Carlo e dopo la morte di una donna di 38 anni, morte che è avvenuta ieri. Potrebbe questo portare dei cambiamenti anche per quanto riguarda le imputazioni. Le bandiere a mezz'asta su Palazzo Civico e sulle sedi dell'amministrazione comunale di Torino, il cordoglio e l'abbraccio della sindaca Chiara Appendino ai familiari di Erika, morta ieri sera quasi 2 settimane dagli incidenti in piazza San Carlo. Le parole dure dell'arcivescovo di Torino, Nosiglia, che parla di una ferita al cuore stesso della città, che resterà come un marchio che pesa sulla nostra coscienza, scrive, di cittadini e su quanti sono stati la causa diretta o indiretta degli assurdi incidenti. La morte della donna travolta dalla calca e colpita da infarto per lo schiacciamento del torace aggrava dunque l'ipotesi di reato contenuta nel fascicolo aperto dalla Procura di Torino, ancora a carico di ignoti. Omicidio colposo e non soltanto lesioni colpose plurime. Quella sera i feriti sono stati oltre 1500 in città, alcuni di loro arrivati in gravi condizioni in ospedale. Alla famiglia e agli amici di Erika sono arrivate le condoglianze del presidente della regione Sergio Chiamparino e dello Juventus Football Club. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E questo il quadro da Torino. Il nostro giro per l'Italia ci porta adesso a parlare del seguente fatto. Non so se ve ne siete accorti, ma non piove da parecchi giorni. Quando piove, piove poco. È un anno, dicono gli esperti, particolarmente secco. Ora, senza stare a prendere cose particolarmente allarmistiche come le agenzie che sono uscite nelle scorse ore, secondo le quali il sud Italia è a rischio desertificazione, vogliamo andare sul territorio e capire che cosa sta succedendo. Per esempio, il grande fiume, il Po. Abbiamo in linea Alessio Picarelli, ingegnere, dirigente dell'autorità di distretto del fiume Po, coordina l'osservatorio permanente sullo stato delle risorse idriche del bacino e quindi ha un quadro un po' complessivo della situazione. Picarelli, e questa situazione com'è? Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. La situazione è sotto controllo. Il bacino complessivamente non sta male, nel senso che il fiume Po in questo momento è in una condizione di magra, ma non molto distante da quelle che sono le condizioni ordinarie. Purtroppo le riserve di acqua non sono tante e quindi siamo già con un livello di attenzione elevato, perché ci aspettiamo un peggioramento della situazione nei prossimi giorni. Sta invece non bene assolutamente tutta la parte appenninica, perché questa scarsità di precipitazioni nell'Appennino è stata ulteriormente gravosa rispetto al resto della zona alpina, per cui la zona dell'Emilia-Romagna è già in stato di emergenza. e abbiamo già dei problemi anche di approvvigionamento idropotabile in alcune aree dell'Appennino, dell'Alto Appennino. Stiamo parlando ovviamente del bacino del Po, io conosco solo questa situazione, non mi avventuro a fare previsioni oltre. Quello che stiamo facendo comunque è un monitoraggio continuo e quindi un mantenimento dell'attenzione su tutta la situazione sia dei grandi laghi che ovviamente delle portate del fiume Po, e in modo da prevedere, qualora la situazione peggiorasse, anche delle riduzioni di prelievi ad uso agricolo per garantire comunque un minimo di portata nel fiume. Piccarelli, abbiamo letto da qualche parte che iniziano a registrarsi problemi non solo in Italia ma un po' in tutta Europa anche per quanto riguarda le centrali idroelettriche. C'è qualche rischio da questo punto di vista oppure no? E quindi se vogliamo di approvvigionamento elettrico? Nel bacino del Po per fortuna i bacini, quelli artificiali per l'idroelettrico, stanno in una condizione discreta. Mi risulta che ci sono delle criticità maggiori nella zona dell'Adige, quindi quello che è il bacino delle Alpi Orientali. Poi il resto, l'idroelettrico ovviamente sconta il fatto che se hai delle scarse precipitazioni d'inverno fai fatica a invasare i bacini artificiali, dopodiché l'idroelettrico ti serve d'estate perché ormai abbiamo visto che i picchi di consumi sono soprattutto coi grandi caldi e quindi potrebbe esserci anche questo problema. Le previsioni che cosa vi raccontano? Di buono, vero? Diciamo così, ci aspettiamo qualche precipitazione a fine mese, per cui speriamo almeno di tirare fino a quel momento in una situazione non estremamente critica. Dopodiché le previsioni a medio-lungo periodo ci danno comunque un'estate calda e quindi sicuramente dovremo soffrire anche quest'anno e stare sempre in allerta e non sprecare neanche una goccia della risorsa. Grazie ad Alessio Piccarelli, dirigente dell'autorità di distretto del fiume Po e coordinatore dell'osservatorio permanente sullo stato delle risorse idriche di bacino, per essere stato con noi. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi torniamo con il nostro giro per l'Italia, andremo a Ferrara per tornare a parlare della vicenda di Igor, che non è ancora stato catturato nonostante i 2 mesi e mezzo di ricerche, e andremo anche a Ventimiglia per parlare della situazione dei migranti, perché insomma qualche problema nuovo c'è in quel confine così delicato, su quel confine così delicato. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, così come sulla pagina Facebook di Radio 24. I nostri titoli: sarebbe stato ucciso il capo dell'ISIS al-Baghdadi in un raid russo su Raqqa. Mosca sta verificando le informazioni, non possiamo confermare, dicono gli Stati Uniti. Sale a 30 morti accertati il bilancio delle vittime dell'incendio di Londra. Questa mattina la regina è stata in visita e anche la premier May ha visitato i feriti in ospedale. Lo sciopero dei trasporti: ci sono stati disagi in molte città italiane. Chiuse le metropolitane a Roma, alcuni voli cancellati, a Milano circolano 3 linee della metro però e disagi contenuti a Napoli. Nello Ius Soli, dopo lo scontro anche fisico in aula, tutto rimandato dopo il ballottaggio, Renzi attacca, assordante silenzio dei cattolici di sinistra alla borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. E che siete cattivi e maliziosi, non lo sottolineerò certo io che questo sciopero cade di venerdì, lo fate voi via SMS, via WhatsApp, e dato che sono, insomma, mi sembra giusto dar voce a tutti, leggo anche questi messaggi sia via SMS che via WhatsApp. Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara. Daniele, ciao, come stai? Buongiorno a tutti. Sì, bene, alla grande. Alla grande, ti abbiamo pescato che sei in viaggio, ma sai, insomma, senza di te ormai non è venerdì. Ascolta, la vicenda, i nostri ascoltatori ormai la conoscono, è quella di Igor il russo, per meglio dire Igor il serbo, Norbert Fehr, assassino del barista di Budrio e anche di una guardia ecologica che è in fuga ormai da oltre 2 mesi, e ogni lunedì ogni venerdì facciamo un aggiornamento. Ma perché? Perché lo facciamo? Perché c'è stato un grande dispiegamento di uomini e mezzi per questa caccia all'uomo in una fascia di territorio tutto sommato abbastanza ristretta rispetto a quella che è la dimensione del nostro paese, ed è una caccia all'uomo che si è rivelata fino adesso infruttuosa in 2 mesi e mezzo, e ci sembra una storia italiana che è giusto continuare a raccontare finché quest'uomo non verrà preso, o almeno finché a un certo punto la polizia non dirà: ragazzi, sappiamo che se n'è andato da qualche parte, ma non sappiamo dove è andato. Come stanno le cose oggi, Daniele? Vai. Le cose sono come bene o male l'hai sintetizzate tu. Questo grande dispiegamento ovviamente è stato ridotto sensibilmente, senza, diciamo, nessuna notizia ufficiale, e le notizie che trapelano in questi giorni è che, ad esempio, le indagini per l'omicidio di Valerio Verri, che è la guardia ecologica che era stata uccisa da Igor Norbert del Ferrarese, queste indagini passano tutte quante a Bologna per connessione, che stava indagando sul primo omicidio, quello di Davide Fabbri, il barista di Bologna. E altra inchiesta che passerà sempre a Bologna sarà quella della rapina sempre di Igor alla guardia giurata, che è il primo episodio della saga di Igor, che è del 29 marzo. Quindi tutto si sta concentrando sempre più in un unico punto, che è Bologna, e da dove stanno coordinando indagini e ricerche. Ricerche che sono scemate quasi del tutto. Ormai le indagini si fanno su carta, non si cerca più fisicamente lui, perché anche perché gli inquirenti parlano non più di un fuggitivo, ma di un latitante. La differenza è sostanziale. Fuggitivo, qualcuno che cerchi fisicamente; latitante, non sai dove sia e cosa stia facendo. Quindi c'è un grande lavoro di intelligence in atto, di cui ovviamente non si può dar conto, però sappiamo che stanno lavorando, e proprio per rispetto di questo lavoro immane che è stato fatto, cioè, occorre sottolinearlo. Però a Ferrara rimangono gli strascichi della saga di Igor, purtroppo. Gli strascichi sono, a parte l'esposto che è stato presentato dalla famiglia Verri, perché il padre, sì, Valerio era una guardia ecologica che era in servizio di controllo. Loro sostengono che non fosse stato diramato un allarme di pericolo Igor e che la morte del padre poteva essere evitata. Questa è un'indagine aperta dalla procura di Ferrara. Sì. Ma la vera notizia di questa settimana, che è curiosa, è che c'è un'altra inchiesta aperta, sempre conoscitiva, tecnicamente si dice come atti relativi. Perché? Ed è un'inchiesta sulla liberazione anticipata di Igor. È una cosa molto importante, perché Igor il Russo, che noi conoscevamo, tutti conoscevano come Vaklevich, quando era in carcere tra il 2011 e il 2015 a Ferrara, ha usufruito di benefici di pena di quasi 2 anni di sconto di pena, quindi è uscito prima, perché aveva una buona condotta. Ora, 2 agenti di polizia penitenziaria, che erano però nella veste di sindacalisti, parlando con televisioni, dissero che Igor in realtà ha fatto il furbo, perché non vedeva l'ora di uscire, e quindi faceva il bravo, faceva il chierichetto, puliva la chiesa, solo e soltanto per tornare fuori a delinquere. Questo è quello che avevano riferito. E allora adesso il Ministero di Giustizia e il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria ha aperto un procedimento disciplinare nei loro confronti per chiedere conto di questo. Perché? Perché non dovevano parlare in TV, in sostanza. Ecco, siamo al paradosso. Hanno detto quello che tutti pensano, sì, questa è la realtà. Che questo non doveva essere liberato perché era un criminale seriale. Allora, Daniele, io ti ringrazio. Gli aggiornamenti, se li volete su questa vicenda, li trovate spessissimo anche sul sito della Nuova Ferrara, oltre che sul quotidiano, ammesso che lo troviate nella vostra zona, se siete nella zona, è la Nuova Ferrara. Daniele Predieri è il cronista che sta seguendo tutta questa vicenda, che ringraziamo. E per chiudere il nostro giro per l'Italia, torniamo a Ventimiglia da Enrico Ioculano, che ne è il sindaco. Buongiorno sindaco, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, le prometto che una volta parliamo della bellezza della Riviera, perché la chiamiamo sempre per parlare dello stesso argomento. Ossia, mi raccomando. Sì, una volta lo facciamo, promesso. Parliamo dei migranti. Dei migranti, il numero, come era forse prevedibile con l'arrivo dell'estate, sindaco, e con questa nuova ondata di sbarchi, sta aumentando, e aumentano soprattutto le persone accampate in luoghi di fortuna, no? Sì, la situazione in questo momento è più complessa del solito, nel senso che potremmo contare sulle 500 persone su per giù. Non fosse solo quello, ci si è aggiunto anche il fatto, insomma, che i soggetti che partecipano oggi alla vita delle persone migranti presenti in città sono diverse, e non sempre si rema dalla stessa parte. Poi, insomma, si sta lavorando per l'ampliamento del centro a 500 posti, ma il problema rimane sempre politico, nel senso, fino a che punto bisogna estendere la capacità del centro piuttosto che la disponibilità della città a continuare ad accogliere. Ricordo che è il terzo anno di fila e per una città come la nostra, penso per qualsiasi comunità, la stanchezza, lo stress iniziano a farsi sentire. Lei ha sentito il ministro Pinotti nei giorni scorsi, o sbaglio? Io ho sentito il ministro Pinotti perché, voglio dire, il ministro Ligure, un ministro importante. Ci sono delle difficoltà oggettive, però io dall'altra parte ritengo che si debba, per non incorrere poi in difficoltà ulteriori o manifestazioni anche di altro tipo, riuscire in qualche modo a limitare gli arrivi a confine, perché oggi non è più solo Ventimiglia a soffrire di un fenomeno così pesante. Poi noi ci siamo spesi negli anni, nel corso dei mesi, anche per lo SPRAR, con l'ANCI sull'accoglienza, sì. Quindi voglio dire, quello lo do per scontato, però iniziano ad essere anche i paesi limitrofi a vedersi, insomma, oggetto di... Guardi, stamattina passavamo da Bray, che è il comune della Varroia, uno dei primi comuni francesi, ci sono 70 migranti bloccati perché la polizia francese non li fa passare, il prefetto di Nizza ha risposto picche al sindaco, quindi adesso si trovano 70 persone sotto un tendone e il sindaco non sa che fare, quindi sono cose già viste. E che riguardano voi, come riguardano appunto comuni limitrofi anche dall'altra parte del confine. Io la ringrazio, grazie a Enrico Ioculano, sindaco di Ventimiglia, e prima o poi appunto con lei parleremo anche delle bellezze di quella zona, però è chiaro che c'è un'emergenza di quel tipo là e bisogna trattarla. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.